Quando si sente parlare di anima è come se si entrasse in quei luoghi dove si esce dal mondo ordinario, dove l'anima non esiste più. All'università non sentirete parlare di anima né a scienze politiche né a filosofia, niente, no, finito. L'anima non c'è, l'anima è superata, è qualcosa di vabbè, a cui credono le vecchiette che ormai sono anziane, vanno in chiesa a cantare un po', hanno piene di acciacchi, cosa devo fare? Devo credere ai cazzate. E quindi anche l'anima. Spero di salvarsi l'anima, visto che la vita ormai finisce così. Ecco, la negazione dell'anima, del concetto di anima, probabilmente è ciò che porta la nostra umanità al vero disastro. Perché cos'è l'anima? Diciamolo con chiarezza. Anima è una nominalizzazione. E il verbo qual è? Animare. Animare. Allora, tu preferisci essere animato o essere inanimato? Ecco, allora vuol dire che l'anima ti interessa parecchio, no? È animato ciò che è vivo, inanimato ciò che non lo è. Quindi quando noi tagliamo via l'anima, tagliamo la vita, fine, punto. E infatti la nostra è una cultura che Freud definirebbe della morte, non solo lui. Perché ciò, infatti, guardate dove siamo andati a finire, il capitale è morto, lavoro è vita, lavoro non c'è più, capitale sta mangiandosi il pianeta. Quando vi dicono non ci sono soldi, è vero, con questa precisazione, non ci sono soldi nel posto dove ci devono essere, ce n'è anche troppi nei posti dove non ci devono essere, cioè al servizio della morte. Allora l'anima, rifacciamoci a Platone, Aristotele, nostre radici. Platone dice che l'anima è ciò che fa sì che un corpo possa muoversi autonomamente. Tutti voi avete giocato con quelle macchinine che gli si dà la carica. Si può fare, si può comprendere. Immaginate un topolino, gli do la carica, lo metto giù, lui fa prrrr, sembra animato. Invece è meccanico, perché? Si è mosso da solo? Sì, no, gli ho dovuto dare la carica io. Prendiamo un topolino vero, lo mettiamo vicino al topolino, l'altro. Il topolino fa frrr, quello meccanico, l'altro non si sa cosa fa. È animato un topo, un albero è animato o no? Eh sì, anche lui. Ma l'albero sta fermo, cioè, se non ne viene il vento di solito, è vero che sta fermo l'albero? Cosa fa, perché? Cresce. È perché cresce, però non lo vedi muoversi, come mai? Perché il movimento è lento. Ma noi oggi abbiamo delle telecamere, lo filmiamo per un mese o due mesi e vedi se non cresce. Allora capite che anche un albero si muove, tutto ciò che è vivo si muove, fantastico. E si muove autonomamente, non c'è bisogno che qualcun altro lo muova. Un sasso, lo metti lì, un topo e un sasso. Il sasso sta lì, gli dai un calcio, va un po' più in là, il topo se ne va più in là, da solo. Topo all'anima, l'albero all'anima, noi anche, siamo... Tradizionalmente si parla di anima vegetativa, piante, anima sensitiva, quella dei topi. E la nostra? Qual è la nostra caratteristica di avere un'anima? Vi ricordate? C'è la biosfera, poi c'è la nuosfera, nuosfera, noosfera. Come si chiama la nostra anima? Anima razionale, la razionalità, razione, pensiero. Però le tradizioni grandi ci dicono che non è mica il nostro punto d'arrivo, eh. L'anima razionale è la noosfera. Bene, bravi, ci avete fatta. Scimmie, ma riuscite, avete compensato col pensiero. Adesso dove andate però con sto pensiero? Ecco. Allora potete tornare peggio degli cioè a brutalizzarvi. Fatti non foste per vivere come i bruti, dice Dante, ma per seguire virtù e conoscenza, cioè usare il pensiero per andare più in alto con l'anima, cioè andare nell'anima spirituale. Porca miseria. Non è difficile da capire. Bene, allora adesso facciamo questo piccolo passaggio. Questo invece è l'ego. Qual è il principio dell'anima? Principio di attrazione, aggregazione, per creare livelli sempre maggiori di organizzazione, complessità. Intelligenza, coscienza, libertà. Quindi, cosa vuol dire? Che nella scala evolutiva, più andiamo verso l'alto, più l'essere in alto, una scala evolutiva, ha maggiore libertà di scelta. Che cos'è l'ego? La struttura dell'ego, per capire, la struttura che connette qualunque ego a tutti gli altri, è questa. È disgregazione. Quindi mentre l'anima unisce, l'ego separa, disgrega e quindi dopo, insieme, genera conflitto. Nell'essere umano, il compito dell'essere umano è passare da qua, attraverso, che qui siamo ancora, quando il bambino è piccolo, è un'anima potenziale, ma ancora un piccolo ego, perché è tutto un po' scisso, no? Però ha già una tensione così. È scisso e frammentato, ma non ha la tendenza a scindere, anzi la sua tendenza a unire e aggregare sempre di più, no? Quindi il sistema nervoso, che prima è fatto di pezzetti separati, pian pianino, si unisce e diventa sempre più coerente. Quindi il compito della vita umana è passare dalle situazioni di incoerenza, cioè da queste, frammenti, a questa coerenza. La coerenza, se io sono coerente, sono integro, cioè sono intero. Se sono incoerente, non sono intero. Se sono coerente, il mio sì uguale sì. Se sono incoerente, il mio sì uguale sì, no, no, no, chissà quanti. Allora, il passaggio da qua a qua, per l'essere umano, è un passaggio che richiede energia. Non avviene da solo. Energia cosa vuol dire? En ergo. Infatti vuol dire al lavoro. Come mai la materia si è aggregata a livelli sempre più grandi? Da dove l'ha presa l'energia per fare sta roba? Dove la pigliano l'energia le piante? Al sole. Quindi c'è un'energia da fuori, perché la vita si nutre di strutture meno complesse, che però distrugge, le trasforma. Quindi di per sé distrugge. Come fa invece poi a costruire? Ha bisogno di energia. Quindi prende, scinde, prendete del cibo, mica rimane uguale, viene tutto scisso, per scinderlo ce ne vuole di fatica. Dopodiché va riaggregato, ancora più fatica. Tutta questa fatica richiede energia. Dove la pigliamo? Dal sole. Allora, un ultimo passaggio. Abbiamo parlato di geosfera, biosfera, noosfera, pneumosfera, neologismo. Ora, nella visione tradizionale, la materia di per sé non ha anima, mica si muove da solo un sasso. Certo, con i miei sensi percepisco questo. Ma oggi, con gli occhi della fisica quantistica, c'è forse qualcosa che non si muove? Tutto si muove, Pantarei, tutto. E tutto si muove in modo sistemico. La struttura dell'atomo è una struttura che ha una sua organizzazione, sia pure semplice, però ce l'ha. Ecco, quindi già dentro la materia, la cui origine etimologica è mater, la madre di tutto, c'è già un qualcosa che tiene insieme gli elementi, perché se no manco gli atomi ci sarebbero. Allora, particelle di tipo A, sovraparticelle di tipo A, sovraparticelle di tipo B. Queste di tipo A sono piuttosto individualiste, queste sovraparticelle. Quelle di tipo B, invece, tendono ad aggregare. Ecco, se ci fossero solo queste, sarebbero diventati perfetti esseri homo economicus, ognuno per fatti suoi. Ma non è andata così. Queste particelle, sovraparticelle, hanno intorno altre sovraparticelle, le quali formano dei legami e cominciano le prime strutture. Questa è come nasce, ma non la vita, la materia. Ecco, quindi c'è dentro già la materia una tendenza all'aggregazione. Allora potremmo dire che forse anche nella materia c'è un'anima, cioè si muove anche lei, genera gli atomi, li distrugge e così via. Però è chiaro che è un'anima di livello molto meno complesso. Ecco. Allora, di cosa stiamo parlando? L'anima è, in un qualunque organismo, è l'anima ciò che tende all'aggregazione e alla maggiore complessità, intelligenza, coscienza e libertà. Io credo che tutti sono interessati a prendersi cura della loro anima, trascurando completamente di investire qui nell'ego, perché investire nell'ego è proprio investire in cose sbagliate, vuol dire investire nella propria disgregazione mentale, fisica, emotiva, spirituale. Okay? Ora dobbiamo tener conto che così come nel mondo dell'economia probabilmente più del 90% delle risorse viene speso male, il mondo esterno ci rispecchia, anche dentro di noi più del 90% delle risorse viene speso molto male, perché se no nessuno di noi potrebbe mai formulare una frase del tipo «io sono stupido». È impossibile per un essere intelligente. Vuol dire che ha generato dentro di sé notevole stupidità. Questa notevole stupidità non ci vuole molto a generarla, perché basta non compiere il lavoro corretto e si genera da sola. Per esempio, se io devo mandare su questo pannerello verso l'alto, ci devo mettere un po' di energia, se poi pesasse 10 kg, devo mettere parecchio per farlo andare. Per farlo cadere basta che abbia la mano. Quindi la forza di gravità, in un certo senso, porta verso la disgregazione. Basta che smetti di lavorare e ti disgreghi. Aristotele parlava in un altro modo. Diceva, sì, no, ora Platone, tu sei intelligente, lo so. Vabbè, okay. Però sai, io ho un'altra idea così. Secondo me l'anima, sai cos'è? È la forma del corpo. Che cazzo vuol dire forma? Cos'è la forma? Aristotele dice, vedi, c'hai due braccia, due gambe, un naso. Beh, la forma è generata da un qualcosa che fa sì che tu sei fatto così, mica c'è uno stampino. Nasci che sei un affarino manco visibile, dopodiché ti formi così. L'anima è ciò che genera la forma. Porca miseria, che intelligenza quest'uomo. Tutte e due, non è che... Riflettete, dice, allora, senti un attimo, ma com'è possibile questa storia che si generi una forma? Ecco. Allora, Aristotele non conosceva allora, non poteva conoscerla, la cimatica, ma noi oggi la conosciamo, cioè una persona su un milione conosce cos'è la cimatica. C'è una persona che ha fatto una tesi sulla cimatica, l'ha letta sua mamma, il professore no perché non leggono le tesi, l'hanno discussa, nessuno l'ha ascoltata, ce n'è uno nel sud Italia, forse ce n'è un altro in Grecia, un altro vicino in Svezia, e basta, la cimatica la conoscono tre. Per parlarvi della cimatica ci vuole un minuto, se avete rappresentazione visiva. Immaginate una lastra, se preferite di rame, fatela di rame, tanto costa uguale, ecco, sottile, ci mettete sopra della sabbietta, poi collegate questa lastra di rame a un oscillatore, che può produrre diverse frequenze. Cosa succede della sabbia? Prende forma. Che forma? Le frequenze più basse sono forme un po' più semplici, via via le forme diventano sempre più complesse. Fino a generare dei mandala. Ma li vedi sotto gli occhi, la calma. Chiudo questo, passo un altro. Masaru Emoto, lui ha fatto un esperimento, ha avuto un'intuizione magnifica. Quando le sostanze cambiano di stato, sono particolarmente sensibili alle influenze. E allora lui ha preso l'acqua nel cambio di stato, tra acqua mentre quando l'acqua ghiaccia, forma i primi cristallini. Poi cosa ha fatto? Ha esposto l'acqua a dei suoni diversi, addirittura delle musiche diverse. Ed è sorprendente vedere, perché quando l'acqua sente determinate musiche, soprattutto quelle di oggi, crea forme bruttissime. Ci mettete le variazioni Goldberg, Bach, crea delle cose fantastiche. Quindi cosa vuol dire? Che questa musica qua è disordinata e genera disordine. Questa qua è ordinata e genera ordine. E questo ieri sera vi dico, quando suonate, state attenti a cosa fate. Perché se non create ordine tra di voi, non vi connettete, voi vi divertite anche, ma è come bere dell'alcol. Cioè la musica può essere questo, cioè la disgregazione della personalità, o può essere veramente la costruzione. Quindi può essere egoica e animica, senza nessuna valutazione morale, semplicemente una constatazione fisica. Quindi l'acqua risponde fisicamente a musiche diverse. In certe musiche crea strutture caotiche, in cui non si riconosce un ordine, e in altre crea strutture ordinate, intelligenti. Allora, Aristotele non poteva sapere queste cose, però c'era arrivato da solo, perché era piuttosto sveglio. Ecco. Allora, oggi noi possiamo sapere, quindi, che attraverso le vibrazioni sonore e non solo, perché tutte le vibrazioni generano queste cose, quelle sonore sono quelle più evidenti, l'universo crea le forme. Oggi noi sappiamo dalla fisica che non c'è niente che assomiglia a qualche cosa che noi crediamo materia impenetrabile, dura, ma sono solamente vibrazioni, vortici velocissimi che sembrano quindi duri impenetrabili, tutto lì. Allora, alla base di tutto quindi c'è la vibrazione e le diverse possibili vibrazioni che formano appunto forme diverse. Okay? Questo è piuttosto interessante. Okay. Adesso avete capito cos'è anima e cos'è ego. L'anima è quel tipo di musicalità interiore che genera buone forme e salute, l'ego è quel tipo di musicalità interiore piena di dissonanze, desintonizzazioni e disarmonie, ecco, e disritmie. Quindi da una parte si genera bruttezza, malattia, sia individuale sia sociale. Quindi noi non stiamo parlando di miti, mito dell'anima. Stiamo parlando di fisica. Quindi l'ego si forma perché si genera distanza tra le persone e a questi punti nascono le strutture di potere. Infatti l'ego nell'essere umano, l'altra definizione di ego è questa, è il potere, la ricerca continua del potere, mentre quella dell'anima è tutt'altro. E proprio i due simboli per l'anima sono appunto il sole radiante, e l'altra questo, il cuore, che è empatia e compassione, è questo. Ora, con questi presupposti chiari in testa, togliamo tutte quelle dissonanze cognitive che fanno sì che in tutta la vita stiamo un po' nell'anima qualche minuto, dopodiché torniamo nell'ego e ci sguazziamo. Anziché renderci conto che quando stiamo qua stiamo facendoci del male, stiamo facendo male intorno a noi, ma male, eh? Produciamo karma. Quindi l'unica vita sensata è quella in cui si vive qua. Si lavora per andare qui. Questa è l'unica vita sensata.